Perché se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In occasione dell'apertura della nuova stagione concertistica di Santa Cecilia, il settimanale Domenica, legato al Sole 24 Ore in edicola Oggi, pubblica un commento di Antonio Pappano, direttore musicale dell'Accademia. Sono appena rientrato dal Covent Garden. Sono qui per una nuova produzione di Tristan und Isolde di Wagner, che debuttiamo a giorni. La prima è martedì, il 29 settembre. Regia di Christoph Loy e protagonisti Nina Stemme, bravissima, e Ben Eppner. Sono totalmente imbevuto di Tristano in questo momento. È musica che ti invade, ti cambia la vita. A Londra dirigo da 7 anni, sono direttore musicale del Royal Opera, dove ho sempre potuto proporre un repertorio variato. Questa è un'opportunità molto bella per la mia vita. Faccio passi tra mondi diversi. Dirigere opere diverse dà carica. Mi obbliga a cercare dentro di me l'energia per reinventarmi su stili lontani. Ad esempio, oggi abbiamo iniziato a provare L'Heure Espagnole di Ravel e Gianni Schicchi di Puccini. È la musica più lontana da Wagner che si possa immaginare. Eppure questo affrontare giri estremi è molto importante per un musicista. Non ho mai amato le specializzazioni. Sono curioso, ho amore per le lingue diverse, per il ritmo delle lingue diverse. Sembra facile. Io parlo il tedesco, il francese, l'italiano, l'inglese è la mia prima lingua. Eppure il ritmo interno dei pezzi musicali può essere molto illusorio se non ci entri. Ho un contratto con Londra fino al 2013, poi si vedrà. Il teatro qui è bellissimo. Orchestra, coro, posso saltare da Mozart, Rossini, Verdi ai contemporanei. Abbiamo proposto diverse prime mondiali, si è creata una specie di famiglia. Siamo amici. Mi piacerebbe creare una situazione simile anche a Roma. L'opera. Parola per emozioni troppo forti. Nell'opera la comunicazione è tutto. Tra chi la fa, tra chi l'ascolta. Se è fatta bene può far passare emozioni importanti. Questa è la ragione per cui l'opera vive ancora. Perché combina la parola quotidiana con la musica, che dice tutto senza nominare. Mette in contatto mondi segreti, verità nascoste. Wagner è un grande in questo. L'orchestra spiega segreti che la parola non possiede. L'opera è sempre una specie di dramma estremo. Tristano e Isotta non possono parlare, devono cantare. Le emozioni sono troppo forti per restare contenute nella parola. L'amore per Wagner è un sentimento impossibile, utopico, ideale, struggente. Due persone che si amano in scena, ma uno è complessato, tormentato dai malintesi con Isotta, e lei piena di rabbia e nello stesso tempo di amore. L'opera è raramente un discorso astratto. Ci sono due persone in scena, non pupazzi sulla luna. Sono due persone vere, non immaginarie. Pubblico. Critici musicali tra Londra e Roma. A Londra c'è un pubblico molto musicale che ha sentito tutti i grandi cantanti, magari perciò un po' conservatore come gusti, ma pronto a capire che tu lì stai facendo lo sforzo per dare il 100%. La stampa qui è molto importante. Ci sono tantissimi giornali e tantissime recensioni. È impossibile avere l'unanimità. Uno dice bianco, uno dice nero. A volte ci si confonde. Per me, la cosa più importante resta la reazione del pubblico. A Roma, avendo sentito dire dell'indifferenza degli ascoltatori, mi sono stupito invece di trovare dall'inizio una grande partecipazione, un'energia che passa. Oggi la musica classica possiede un livello tecnico così alto e così diffuso, a differenza del passato, che il rischio è la routine. L'appiattimento. Non basta la tecnica, ci deve essere l'entusiasmo. Stiamo lottando per l'arte, non possiamo perdere questo mestiere. Le scuole. Chissà, la musica è meno noioso nel lavoro. Il problema inizia nelle scuole. Io sono molto fiero del Dipartimento Educativo a Santa Cecilia. Fanno in grande, coinvolgono 500-600 giovani. Ma non possiamo essere solo noi. Nelle scuole dovrebbe essere obbligatorio studiare la musica. Non solo filosofia, matematica. L'arte apre i cervelli, stimola idee. Se uno non viene stimolato quando avrà 30-40 anni, sarà un noioso nel lavoro, senza orizzonti. Questo vale anche per il governo. Sapendo di musica, avremo una classe politica migliore. Un'educazione non convenzionale nel family business. Non ho avuto una vita musicale convenzionale. A 6 anni ho iniziato a studiare il pianoforte. A 10 accompagnavo gli allievi di papà, maestro di canto. Per 12 anni ho lavorato così. Era un family business. Prima vivevamo a Londra, poi a Bridgeport, nel Connecticut. Non era un gran posto, sono andato a scuola, certo. Avevo 13 anni, ma per il pianoforte ho continuato con gli studi privati. La mia insegnante in America si chiamava Norma Verrilli e il mio maestro di composizione era Arnold Franchetti, il figlio di Franchetti, operista. Lui aveva studiato con Richard Strauss. Era incredibile questa eterogenea comunità italiana al di là dell'oceano. Per me un'opportunità di incontrare tanta musica diversa. Leggevo a prima vista anche musica sinfonica o contemporanea. Passavo dalla leggera al contrappunto di Bach. Avevamo il nostro family business, che voleva dire che anche io dovevo lavorare. Suonavo in chiesa, nei concerti privati, per i cocktail. Sono cresciuto con un senso molto italico-americano del lavoro. L'opera, New York. A Bridgeport c'era un teatro d'opera diretto guarda caso di nuovo da un altro italiano, Giuseppe Campora. Era stato un grande cantante degli anni 50. Una volta venne chiamato per sostituire all'ultimo il pianista collaboratore durante le prove dei Pagliacci. E da lì incominciai a collaborare col teatro. A un certo punto mi affidarono anche la direzione del coro. A 23 anni feci un'audizione all'Opera di New York, New York City Opera. Fu un passo in avanti, mi presero, ma per mio padre fu un trauma. Avevamo sempre lavorato insieme. Lì feci di tutto. Maestro sostituto, direttore della banda di palcoscenico, buttavo i cantanti in scena. Per un giovane guadagnavo bene. Ma ogni sera ritornavo a casa, 1 ora e mezza di treno nella notte. Era una vita dura. Andai avanti così per 2 anni e mezzo. Back to Europa. Poi un giorno arrivò a New York Romano Gandolfi, il maestro del coro della Scala. Lo avevano chiamato per dirigere il Requiem di Verdi. Io gli facevo un po' da interprete e suonavo al pianoforte nelle prove coi cantanti. Mi invitò a trasferirmi a Barcellona, al Teatro Liceu, sempre come pianista collaboratore. Io volevo fare di più il repertorio tedesco e lì c'era una società wagneriana, era il 1985, molto importante. Mi arrivarono altre piccole opportunità per dirigere. Una volta una cantante, Inga Nielsen, mi volle in Danimarca a dirigere un concerto. E lì sentì che avevo un potere di comunicazione, se non la tecnica, che invece non avevo per niente. Poi, 2 fatti decisivi. Uno, l'incontro con Barenboim. L'altro, la mia prima bohème. Barenboim cercava dei cantanti per la sua tetralogia a Bayreuth. Io li accompagnavo al pianoforte. Ne selezionò alcuni e prese anche me. Diventai il suo assistente personale. A Oslo mi offrirono una bohème. Lì fu un'emozione fortissima, perché tutto quel lavoro che avevo accumulato fino a quel momento, papà, i teatri, Barenboim, si sciolse in quel momento. Mi assegnarono la direzione del teatro di Oslo. Era il 90. Nel 92 accettai la direzione principale della Monet di Bruxelles, per 10 anni. Poi Londra. Roma. Le parole della musica senza parole. Oggi lavoro con serenità, prima ero più nervoso. I 10 anni a Bruxelles mi hanno insegnato molto, ma la serenità l'ho trovata recentemente. Si impara, si dimentica la critica negativa. Si fa questo lavoro per vocazione. In fondo siamo dei privilegiati. Roma è stata anche la chiave per capire gli italiani. Io conoscevo solo gli italoamericani e soprattutto mi ha offerto l'opportunità di fare musica senza i cantanti, senza le parole. La musica sinfonica mi ha portato più vicino a me stesso. Con l'orchestra siamo soli, io e loro. Lavoriamo sul suono e quando abbiamo creato questa magia, allora il pubblico ci segue. Noi siamo lì per loro. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Antonio Pappano dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Lunedì scorso, in occasione dei funerali solenni dei 6 soldati italiani caduti a Kabul, è stato chiesto di far osservare 1 minuto di silenzio agli studenti di tutte le scuole italiane. Ma molti presidi si sono rifiutati, chi per motivi politici, chi adducendo le scuse più assurde. I bambini sono troppo piccoli e non capiscono. La circolare è arrivata in ritardo. Senza un'adeguata riflessione sarebbe solo retorica. Le missioni di pace si fanno con i medici, non con i soldati. C'è sempre un motivo, tutt'altro che buono, per evitare un gesto semplice ma importante. Quasi tutte le scuole d'Italia lunedì mattina si sono fermate per 1 minuto di silenzio in memoria dei 6 soldati caduti a Kabul. ma altri presidi si sono rifiutati di accogliere la disposizione del Ministero. Quando la settimana scorsa Maria Stella Gelmini ha denunciato, in un'intervista al Corriere, la persistenza di aree di militanza politica nella scuola, si sono levate contro di lei molte critiche. Ora appare chiaro che il ministro non aveva torto. Ebbene ha fatto a chiedere scusa alle famiglie dei caduti, anche a nome di coloro che hanno negato quel minimo segno di dolore e rispetto. Resta l'amarezza per una scuola che, sia pure con molte eccezioni, riesce a trasformare anche un'occasione di unità nazionale in un punto di divisione. E soprattutto si ostina a leggere qualsiasi vicenda attraverso le lenti della politica, peggio ancora, dell'ideologia. Tra le varie giustificazioni colpisce quella della direttrice di una scuola romana. Ogni caduto sul lavoro, non soltanto i militari, dovrebbe essere commemorato. L'obiezione è sottile perché incrocia un'attitudine dell'opinione pubblica. Mai come questa volta l'Italia ha reagito al lutto come un paese normale, piuttosto che come un paese emotivo. Ma proprio questa normalità implica che il rimpianto e la gratitudine per i soldati, uccisi in una missione di pace che conducevano in nome e per conto di tutti noi, unisca anziché dividere. Mentre quasi l'intero paese si fermava, mentre in qualche aula si faceva come se nulla fosse accaduto, nella Basilica di San Paolo fuori le mura i familiari si congedavano dai loro cari senza strepiti, senza invettive contro lo Stato e i suoi rappresentanti, ma con un dolore silenzioso. Quel dolore è stato, anche per i bambini e i ragazzi rimasti senza loro colpa seduti nei banchi, la migliore delle lezioni, e anche i piccoli l'hanno capita benissimo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Cazzullo, Un gesto semplice e una cattiva lezione, dal Corriere della Sera del 21 settembre. Un recente studio evidenzia come i nostri comportamenti, sia quelli salutari che quelli dannosi, si possono trasmettere a chi ci sta vicino come se fossero virus. L'antica saggezza e il comune buonsenso non hanno mai avuto dubbi in proposito. I comportamenti, virtuosi o viziosi, sono contagiosi. Malgrado la ricerca stia da tempo accumulando prove a conferma di ciò che tutti dovremmo sapere, sembra che non ci si renda conto di quanto dipenda anche da noi contribuire positivamente al miglioramento degli stili di vita, al risanamento dell'ambiente, alla pacificazione della convivenza negli agglomerati urbani di ogni dimensione. Di recente, Nicholas Christakis e James Fowler, analizzando i dati raccolti nel corso di anni a Framingham, Massachusetts, sono certi che i comportamenti salutari, come smettere di fumare, una buona alimentazione, un atteggiamento sereno e socievole, si trasmettono a chi vive accanto a noi come virus altamente contagiosi. Lo stesso accade purtroppo per i comportamenti dannosi alla salute, alle relazioni sociali, alla partecipazione alla vita comunitaria. In Italia, il geoantropologo Paolo Rognini e lo psicologo Paolo Fugnini si occupano da tempo dello studio dei luoghi e degli stimoli fisici all'origine dei nostri comportamenti, con risultati di grande rilievo teorico e pratico, che dovrebbero essere tenuti in seria considerazione da chiunque abbia a cuore le condizioni di vita delle città o di chi vi abita. L'abbandono e la trascuratezza, ovunque si manifestino, esprimono con drammatica evidenza la negazione stessa della cura e l'emergere del suo contrario, la sinecura, nell'accezione di mancanza di responsabilità. Se è vero che i nostri comportamenti sono contagiosi, la riassunzione di responsabilità individuale, la convinzione che agire e vivere nel rispetto verso noi stessi e verso gli altri hanno un effetto positivo in coloro che vivono accanto a noi, possono portare risultati benefici in termini di salute, sicurezza, maggiore serenità nei rapporti umani, richiamo energetico nei confronti di chi ha responsabilità pubbliche. Il detto «se la città è sporca, comincia a spazzare davanti alla tua porta» non implica affatto che chi ci governa non debba fare la sua parte e dare il buon esempio, anch'esso contagioso. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Fulvio Scaparro «Come può cambiare la vita se i comportamenti sono contagiosi» dal Corriere della Sera del 15 settembre.